si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Ed eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati con l'appuntamento estivo di Si può fare su Radio 24 il sabato a mezzogiorno. Non c'è invece più la puntata della domenica, sempre da mezzogiorno alle 13, le puntate del palinsesto invernale. Ma non preoccupatevi, perché in questa fase estiva vi facciamo risentire le cose migliori, le storie più belle che sono andate in onda, che tra l'altro sono state oggetto anche di un sondaggio. Le più belle le avete votate, le avete scelte, insomma le conoscete e le potete anche ritrovare sul sito di Radio 24, www.radio24.it. Oggi parleremo dei nostri amici animali a quattro zampe, perché insomma è un problema per chi ha un animale, un cane, un gatto, quant'altro, potersi spostare in città, perché dove lo porto se non hai la macchina a disposizione? Per esempio pensiamo agli anziani che devono portare gli animali dal veterinario. Allora c'è il servizio taxi per gli animali. Partiremo da qua, da questa bella storia oggi, e poi vi racconteremo altre cose. Andremo a Palermo, dove il comune sceglie di puntare sugli alimenti, insomma sul cibo a chilometro zero, biologico, tutte cose naturali per i bambini delle scuole di Palermo. Insomma, una scelta che se la facessero in tanti sarebbe sicuramente molto positiva, perché risparmieremo chissà quanti soldi in cura di malattie e contro l'obesità, per esempio, no? E poi andremo più avanti a fare il punto con due ospiti, con due storie importanti per Radio 24, IAC Italia, il comitato promotore che sta portando in Italia la banca senza interessi, una storia fantastica. E poi Daniela Ducato di Edilana, il suo network di imprese nate dalle eccedenze della produzione agroalimentare. Ma iniziamo subito con il taxi per gli animali, una storia che vi abbiamo fatto sentire a marzo di quest'anno. Sentiamo. Chi accompagna il cane fuori di casa, ma soprattutto chi lo accompagna dal veterinario, se uno per esempio è un anziano solo con un cane, non ha la macchina. Io capisco che chi non ha animale dirà: ma che notizia, di cosa stiamo parlando? Però chi invece un animale in casa ce l'ha, superata questa soglia, sa che tutto può accadere. Per esempio può accadere anche che c'è il taxi per gli animali. È vero, Michele Caricato? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Istruttore cinofilo e animatore di questa iniziativa che si chiama Pet Taxi. Esatto, sì. Sì, è un'iniziativa che è partita sia su Roma che su Milano, quindi le due città, diciamo, più grandi, importanti, esatto. Sì. E abbiamo messo a disposizione un Pet Taxi appunto su Roma, uno su Milano, rivolgendosi al veterinario, perché abbiamo preso chiaramente come riferimento la necessità principale, nel senso che... Cioè uno potrebbe pensare anche al taxi per animali per andare a fare un giro, no, voi siete partiti dal bisogno, cioè uno ha un cane, un animale, insomma, e lo deve portare al veterinario e magari non ha la macchina, oppure è una persona anziana, non sa come fare, tac, arrivate voi. Esatto, quindi il nostro tassista, che poi è un educatore, va a casa, dà una mano a caricare il cane, il gatto, che di solito quando sentono che c'è da andare dal veterinario, loro lo sanno prima. Sarà un po' come i bambini, no? Che cominciano a strillare. Esatto, perché di solito gli animali amano viaggiare, soprattutto i cani, però sì, nel caso in cui c'è aria di veterinario... Cioè già lo capiscono quando cambia l'aria, insomma. Assolutamente, sono proprio avanti. Ma chi sono i potenziali utenti di questo servizio a cui voi vi rifate? Sì. Di solito, insomma, persone sì, magari anziane che sono stanche di dover pregare figli o di accompagnare parenti, sì, non ne possono più di dover supplicare, e soprattutto magari di supplicare parenti o amici che non capiscono l'esigenza, invece così hanno accanto a loro l'autista, che appunto è un educatore che capisce esattamente il loro stato d'animo, le esigenze e infatti anche la capacità di diciamo, ascoltare un po' tutte quelle che sono le problematiche, tutte quelle che sono i racconti che amano fare i proprietari di cani e di gatto, che come argomento principale nella vita hanno quello di raccontare ciò che fanno i propri beniamini. Cioè, ma insomma, nelle grandi città, no? Milano, Roma, cioè, non so se avete delle statistiche, insomma, che percentuale di persone hanno un animale? Visto che stiamo... Ormai sì, no, abbiamo le statistiche, sì. Assolutamente, ormai il 30% delle famiglie ha un cane o un gatto, e la percentuale sta salendo, anche perché poi molti animali, nonostante siano quasi monitorati, cippati, comunque ci sono ancora molti animali che ancora sfuggono a queste statistiche, però sì, la compagnia di un cane o di un gatto ormai è quasi nel 50% delle famiglie. Che cosa capisci dei loro proprietari, no? Cioè, seguendo la traccia della vita di questi animali, cioè, cosa si capisce delle persone rispetto a quello che è il loro rapporto con gli animali? Il 30% di persone che hanno un animale nelle grandi città è tantissimo. Sì, ma io penso che fondamentalmente dipende un po' dalle fasce d'età. Diciamo che le persone giovani o comunque di mezza età, secondo me, nell'animale vedono un pochettino il contatto con la natura e poi la serenità, sinceramente, perché il fatto che di rientrare la sera e qualsiasi cosa sia accaduto, avere un animale, soprattutto il cane in questo caso, che comunque è sempre contento qualsiasi cosa succeda, dà una grossissima iniezione di positività, ci insegna, io dico per esperienza personale, insomma, mi guardo i miei cani che sono sempre felici, allora imparo un po' da loro, no? A prescindere sono felici, se escono tanto sono felici, se non escono tanto sono felici, se gli do più pappa sono sempre felici, e questo secondo me ci dà una grossa iniezione di positività, impariamo da loro. Nelle persone magari un po' più anziane è proprio un discorso di compagnia, assolutamente. Il fatto di occuparsi del benessere di un altro essere, cane o gatto, è un impegno quasi di tutta la giornata, perché insomma fra poi insomma ti spinge anche a tenerti un po' in movimento, a uscire naturalmente per accompagnarlo fuori, e questa è una cosa che fa sempre bene. Michele, non abbiamo detto però come fare ad utilizzare questo servizio, se uno è a Roma, a Milano, c'è un numero oppure direttamente tramite il veterinario? Sì, allora noi quello che consigliamo appunto di rivolgersi al proprio veterinario, perché come hai accennato c'è la possibilità di avere queste cose ad un prezzo particolarissimo, addirittura, ecco questo è importante, in alcuni casi anche gratuitamente, e quindi tanto meglio, no? È certo, in alcune situazioni sicuramente può essere molto utile, e quindi rivolgendosi al proprio veterinario, ripeto in questo caso Roma e Milano, si possono avere indicazioni. E in alternativa io posso dare il numero verde. E diamolo, sì. È che è 800 07 7315. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Meglio perderci più tempo che mangiare porcherie. E si cucini, poi sta sicuro che un t'avveleni. Una matriciana fatta in casa di quella surgelata che è balurda. Vabbè, non avevamo trovata una canzone adeguata alla regione dove siamo, perché siamo in Sicilia, anche se questo è uno stornello tipicamente romano. Salutiamo intanto l'assessore alla scuola di Palermo, Barbara Evola, buongiorno. Buongiorno a voi. Perché però l'argomento è quello, no? Parliamo di cosa si mangia a tavola. Sì, comunque è incredibile questa canzone, poi me la inviate. Sì, perché potrebbe tornare utile per uno spot, per esempio. Perché di cosa stiamo parlando? Del fatto che Palermo, grazie anche al lavoro dell'assessore Barbara Evola, decide di investire sull'alimentazione sana e naturale negli asili nido, con prodotti biologici a chilometro zero. È anche un investimento questo che fa il Comune di Palermo. Saranno contenti tutti i genitori di piccoli studenti palermitani, intanto, no? Assolutamente, devo dire che da noi la cucina è sempre stata molto curata, però abbiamo si mangia bene, si sa. Sì, ma abbiamo voluto dare questo ulteriore segnale, modificando completamente i criteri della gara, introducendo appunto questi criteri come il chilometro zero, il prodotto regionale e poi soprattutto la tracciabilità, per evitare di ritrovarci a tavola dei prosciutti che portano magari il marchio italiano, però in verità vengono da allevamenti che non sono controllati in paesi dove appunto la normativa è completamente diversa dalla nostra. Oppure il caso, mi diceva lei, per esempio, delle arance di Spagna e in Sicilia, che è una follia, no? Ci sono le arance siciliane che vengono buttate via, e allora è assurdo che proprio l'amministrazione pubblica, il comune, con i suoi fornitori, vada ad utilizzare prodotti che vengono dall'estero. Non c'è nulla contro, però è chiaro che se si può alimentare la filiera agroalimentare nostra, questo è una scelta da fare, no? Una scelta obbligata. Infatti abbiamo voluto intraprendere immediatamente questa strada, anche perché è un modo per muovere la microeconomia, ma anche nello stesso tempo per portare avanti delle politiche ambientaliste, perché naturalmente la filiera corta, il chilometro zero, significa evitare il trasporto su gomma, che ancora adesso rappresenta una delle fonti di inquinamento più alte, e poi naturalmente la valorizzazione dei nostri prodotti, del piccolo mercato, di quei piccoli produttori che in questo momento di crisi naturalmente possono avere anche uno sbocco di mercato, e magari per voi anche l'occasione di risparmiare qualcosa, perché andando a fare questi bandi in cui si coinvolgono i piccoli produttori locali, appunto, si risparmia sul trasporto e magari anche su altre voci. Possibile che il comune riesca anche a risparmiare qualcosa, e anche questa sarebbe una buona notizia, no, di questi tempi. Infatti anche questo, diciamo, il risparmio è un'altra delle conseguenze. Sicuramente abbiamo pensato prima a valorizzare, diciamo, altri aspetti, ma anche questo è un aspetto importante, perché poi magari con le stesse cifre che mettiamo a disposizione abbiamo la possibilità di acquistare più prodotti o di arricchire ulteriormente il menù dei nostri bambini. Ecco, perché il menù dei bambini è importante dire questo, perché uno all'ascolto potrebbe dire: vabbè, a Palermo, con tutti i problemi che ci hanno, vediamo le scene dei rifiuti che sono per strada, le casse del comune, il dissesto finanziario, tutte notizie che leggiamo, la mafia, per non parlare. Però che cosa c'è di più importante di quello che poi si mangia, no? Cioè, nella vita di una persona, se uno ci pensa un attimo concretamente, in effetti questa è una cosa basilare per i bambini, poi, quindi per voi questa è una priorità. È una priorità assoluta, e poi devo dire che rispetto anche ai dati piuttosto allarmanti dell'obesità infantile, iniziare da subito a curare gli aspetti dell'alimentazione. Noi cerchiamo di coinvolgere anche le famiglie per introdurre le pratiche di una buona alimentazione anche a casa. Dico, questo è assolutamente fondamentale, e non bisogna naturalmente confondere le diverse tipologie di problemi, né tantomeno farsi schiacciare dai problemi, altrimenti si rischia di non andare avanti. Quindi abbiamo il problema della spazzatura, lo stiamo affrontando, stiamo cercando di affrontare le altre mille emergenze che soffocano questa città, però nello stesso tempo dobbiamo anche lavorare su altri fronti, mi sembra giusto. Non possiamo sicuramente penalizzare i bambini, anche perché, ripeto, sono due settori diversi, due problemi diversi, quello dell'alimentazione dei bambini e dei rifiuti. Ma certo, no, il paragone, il confronto viene spontaneo, perché spesso i telegiornali riportano giustamente anche quel tipo di notizie lì, e allora il ragionamento che il cittadino della strada può fare è questo. Ma abbiamo detto chiaramente che quello dell'alimentazione non può non essere una priorità, specie poi se parliamo di bambini, ma anche di adulti. Poi c'è di mezzo l'economia, abbiamo detto la filiera corta, insomma le buone notizie sono molte. Buon lavoro, in bocca al lupo, buon appetito. Grazie, negli grazie asili di Palermo. Barbara Evola, assessore alla scuola del comune di Palermo. Questa era la notizia. E adesso invece ci spostiamo in bicicletta a Ravenna. Il nome che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia e carabinieri. Siamo là, ladri di biciclette, siamo là, là, là, e siamo qua, ci piace ridere, rubare, ladri, sì, sì, sì, ma per suonare. Non potevamo non utilizzare ladri di biciclette, dei ladri di biciclette, perché la notizia è questa: siamo a Ravenna, una delle città che sta sperimentando con un certo successo un sistema antifurto per biciclette, appunto, che si chiama Easy Targa. Ne parliamo con l'assessore all'ambiente e allo sport della città, Guido Guerrieri. Buongiorno. Buongiorno a voi. Di che si tratta, prima di tutto, un sistema che si sta diffondendo un po' anche in altre città d'Italia? Voi siete tra quelle città che lo stanno sperimentando, forse tra i primi. Di che cosa stiamo parlando, prima di tutto? Easy Targa. Sì, stiamo parlando di un sistema cosiddetto di targatura della bicicletta. Viene apposta questa etichetta non rimovibile sul telaio della bicicletta, che è un codice identificativo. Viene poi registrato su un apposito sito su cui è accessibile come banca dati. Questo consente, in caso di smarrimento o ritrovamento di quella bicicletta, tramite il codice, di risalire al legittimo proprietario che aveva fatto la registrazione. Insomma, quasi una targatura in piena regola, quasi, perché non ci sono degli adempimenti burocratici, che altrimenti uno dice: cavolo, anche con la bicicletta devo andare al PRA, diventerebbe una follia. È un po' meno burocratico, però forse altrettanto efficace. Tanto efficace, meno invasivo, perché non è una targa così, diciamo, visibile come quelle dei motorini, sì. È una etichetta più piccola, un codice più lungo, però che può essere attaccato sul telaio, quindi di dimensioni contenute, non disturba neanche l'estetica della bicicletta per i più puristi, ma comunque la rende identificabile e rintracciabile, consentendo di abbinare quella bicicletta al legittimo proprietario, cosa che altrimenti non è fattibile, perché non c'è nessun sistema, insomma. Esatto, diciamo subito che è un metodo che ognuno può fare in solitudine, cioè privatamente uno può acquistare questa cosa, può farlo, però le città dove questa cosa viene spinta dall'amministrazione come incentivo, diciamo così, al possesso di biciclette, quindi all'uso, eccetera, eccetera, e questa cosa si diffonde un pochino di più. Che cosa avete fatto voi in particolare a Ravenna? Ma noi, raccogliendo le istanze e la sensibilità dei cittadini, abbiamo sposato questo sistema, l'abbiamo promosso già l'anno scorso in un paio di occasioni. Mi ricordo la prima circa un anno fa, in cui lanciamo una giornata, una biciclettata in Piazza del Popolo, regalando la targa ai primi che confluirono in piazza. Mi sembra fossero 200 targhe andate bruciate in pochissimo tempo, una giornata piena di persone che vennero in piazza con la bicicletta, una bellissima occasione per fare una biciclettata, ma per iniziare a diffondere questo sistema. Che ci stava dicendo, insomma, funziona, dà dei risultati. Ora non so se avete dei numeri, forse sì, forse no, però Noi non abbiamo in questo momento dei dati precisi, sì. Ricordo che fece notizie il primo ritrovamento durante la notte d'oro, sì, della prima bicicletta, che non era ancora stata denunciata come furto, ma fu ritrovata questa bicicletta e tramite la targatura risalirono subito al legittimo proprietario. Quello fu il primo ritrovamento, è stato. Dopo da allora ce ne sono stati altri, ma adesso in questo momento non vi so dire di preciso quanti specificatamente. E perché non si riesce a cancellare questa cosa tecnicamente? Cos'è, un'incisione nel telaio in qualche modo? No, è un sistema adesivo che viene attaccato. Diciamo che chi dovesse rimuoverla rimane l'alone indelebile, per cui sì, si vede che c'è una targatura ed è stata tolta, quindi... Diciamo diventa difficile mettere in commercio, poi no, rivendere, che sappiamo che c'è un secondo, terzo. Per chi avesse quella bicicletta deve comunque giustificare l'assenza della targatura, che è comunque difficile da staccare, però insomma, se uno dovesse con un sistema abrasivo raschiare via, però dovrebbe mettere pesantemente mano alla bicicletta. Insomma, un modo come un altro per incentivare l'uso della bicicletta. Voi, tra l'altro, siete una città, insomma, è facile magari un ascoltatore, che ne so, di Siena, dove ci sono le colline, e pensa a Ravenna, siete in pianura, da voi è facile incentivare l'uso della bici. Ecco, comunque lo stiamo diffondendo, adesso ci siamo incontrati, perché sì, anche Rimini era molto interessata. stiamo pensando di fare una giornata di promozione condivisa con gli altri capoluoghi della Romagna, quindi Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, forse Ferrara, qui per dopo l'estate, una giornata unica di promozione della bicicletta con diffusione della targatura, quindi una giornata in cui vorremmo portare tanta gente nelle piazze in bicicletta, promuovendo anche in quell'occasione il sistema della targatura, perché vediamo che ha un notevole successo. Gli stessi rivenditori lo stanno proponendo, credo, in modo positivo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E stiamo risentendo le migliori storie di Si può fare che abbiamo mandato in onda durante l'anno e che in questa programmazione estiva vi facciamo risentire. Si può fare la banca senza interessi, non è un sogno, non è un miraggio, è un progetto che sta diventando realtà in Italia. Io chiedo in prestito dei soldi, poi tu me li ridai, ma senza pagare gli interessi, che poi fanno crescere l'indebitamento e diventa un circolo vizioso, e la crisi, la grande crisi economica è nata anche da lì. Facciamo il punto su questa bella storia tra pochissimo. Poi sentiremo anche Daniela Ducato di Edilana, l'abbiamo sentita qualche settimana fa, il suo network di imprese nate dal riutilizzo degli scarti della produzione agroalimentare, che adesso sta sperimentando il progetto della Banca del Sole. Ma iniziamo dalla banca senza interessi. People Have the Power, questa meravigliosa canzone, celebre canzone peraltro. Quale potere maggiore per la gente di quello di potersi costruire una banca da soli, fatta su misura? Una banca, per esempio, senza interessi, cioè io ti presto 20.000 euro, tu me li ridai tutti, senza però pagare gli interessi, senza quindi creare quella spirale di indebitamento che mi può portare magari successivamente a dovermi indebitare ulteriormente. Tutti quelli che lavorano in una banca normale adesso non ridiranno, perché diranno: ma come? Come si fa allora a pagare il lavoro della banca? Non lo so, questo è un problema che lo chiediamo a loro, a quelli che stanno promuovendo anche in Italia la banca senza interessi. Si chiama IAC Italia, viene dalla Svezia. Ritroviamo con piacere Enrico Longo. Buongiorno Enrico. Buongiorno, buongiorno a tutti e buona festa della Repubblica a tutti. Vabbè, già che ci siamo, bravo, così hai messo un pizzico di attualità in più nel programma, Enrico. Presidente del Comitato Promotore IAC Italia, abbiamo detto di cosa si tratta. Ci eravamo sentiti tempo fa, tra l'altro anche in occasione della festa delle Val di Trento dell'anno scorso, proprio Enrico, ti ricorderai, con il lancio della vostra iniziativa. Adesso il passaggio che state affrontando è quello del depositare i documenti alla Consob per poter diventare una vera e propria banca. Per fare che cosa? Sì, assolutamente sì, dopo un anno, è passato un anno da quando ci siamo sentiti l'ultima volta, un anno di lavoro duro ma anche divertente, mi viene da dire. In questo anno abbiamo chiuso, abbiamo completato il nostro business plan, che è stato asseverato, cioè certificato da un revisore legale dei conti. Abbiamo ottenuto una lettera di intenti dalla IAC svedese. E quindi noi, come dire, abbiamo la documentazione, siamo pronti per poter depositare presso Consob la documentazione e quindi attendere l'autorizzazione all'inizio della raccolta. Ovviamente, io ho detto la banca, sì. Ecco, la banca senza interessi, poi come si mantiene la banca senza interessi? Perché uno pensa, giustamente, gli interessi servono per mantenere in piedi il sistema bancario. Senza entrare in dibattiti filosofici, come funzionerà questa banca, Enrico? Ma innanzitutto quello che noi diciamo poi sempre quando parliamo con le persone è che IAC sarà una banca, uso un termine un po' inflazionato ma poi lo spiego, no profit, cioè non avrà obiettivi di massimizzazione del profitto, avrà come unico obiettivo quello di mantenere in piedi la struttura, quindi di pagare i costi, pagare gli stipendi delle persone che lavoreranno e avere un utile minimo che consente di mantenere in piedi la struttura e di effettuare gli investimenti necessari. Quindi evidentemente, non avendo obiettivi di profitto, già si capisce che le risorse in entrata necessarie saranno minori. Come si manterrà? Le banche normalmente con gli interessi appunto non sopravvivono semplicemente, ma hanno normalmente e giustamente dal loro punto di vista obiettivi, sì, di profitto. IAC ha fatto una scelta diversa, si manterrà attraverso il contributo di tutti i soci. IAC sarà una banca esattamente come in Svezia, con migliaia di soci che verseranno le loro quote, le loro spese di gestione, certo, conto, e con questi soldi, con queste entrate, la banca manterrà in piedi la propria struttura. Adesso siete arrivati a oltre 300 diciamo, soci, che quindi saranno verosimilmente il nucleo poi dei futuri clienti, soci di questa banca, insomma, associati all'associazione del comitato promotore, cioè il comitato e poi l'associazione. Vabbè, ma queste sono cose tecniche che non interessano. Invece, Enrico, quello che interessa è che adesso per arrivare a questo risultato avete bisogno di partecipazione di gente, perché questa banca non cala dall'alto, è un progetto voluto dai cittadini. State facendo una campagna, mi dicevi, per insomma raccogliere anche un po' di fondi, perché per far nascere una banca ci vuole anche un po' di soldi. Sì, esattamente. Quindi chi ci crede, è il momento di sintonizzarsi e stare bene ad ascoltare. Innanzitutto, proprio perché oggi è il 2 giugno, mi piace ricordare ciò che ci viene detto dall'articolo 2 della Costituzione, che è vero che sono garantiti i nostri diritti inviolabili, ma abbiamo anche dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. E proprio da questo nasce l'idea di contribuire. Questa banca potrà essere davvero delle persone se insieme la costruiamo, se nessuno aspetta che arrivi dall'alto. Abbiamo quindi lanciato come associazione culturale una campagna di raccolta fondi, perché la fase che sta iniziando adesso sarà sicuramente impegnativa e anche dispendiosa, perché il revisore legale che ci ha asseverato il business plan dovrà essere pagato, lo studio legale che ci sta seguendo dovrà essere pagato, e poi tutta una serie di spese connesse all'iniziativa. Ci tengo a precisare che tutte le persone però che collaborano a IAC lo fanno a titolo esclusivamente volontario, quindi sono tutte spese esterne, non ci sarà nessun tipo di retribuzione per i partecipanti. Sul nostro sito si possono trovare tutte le informazioni relative al lancio di questa campagna di raccolta. Benissimo. Fondi. Allora, www.iacitalia.it, grazie a Enrico Longo del comitato promotore di IAC Italia, in bocca al lupo, ci risentiremo presto, speriamo che la banca senza interessi sia presto una realtà in Italia. Grazie. Grazie a tutti. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Italia sì, Italia no, Italia boom, la terra di cachi. Eccoci qua con la nostra sigletta, che in realtà non è quella giusta, perché volevamo la sigletta sui lavori inventati, no? Perché insomma di oggi la notizia della CISL che lancia l'allarme disoccupazione anche per quest'anno, a rischio altri 120.000 posti di lavoro. E allora per trovarsi il lavoro ci vuole un po' di fantasia, ma bisogna anche imbroccare il settore giusto. E allora sentite qua queste due notizie della settimana. Intanto il settore alimentare va benissimo, il caviale bresciano approda in Russia. L'associazione agroittica lombarda ha annunciato l'ingresso del caviale bresciano nel mercato russo, quindi si aprono praterie per questo prodotto, e quindi è una buona notizia. L'altra buona notizia, sempre del settore alimentare, è questo: fine dell'embargo in America per i salumi italiani, perché quattro regioni italiane, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto e il Piemonte, non potevano esportare in America perché per una vecchia questione di una malattia degli animali. Adesso è stata risolta 15 anni di contenzioso, pensate, un settore che vale diverse centinaia, 200 milioni di euro, secondo le stime delle associazioni imprenditoriali. Due buone notizie. Adesso invece ci colleghiamo con il prossimo ospite, è una imprenditrice che anche lei ha trovato il settore giusto. Voglio vivere così, voglio vivere così, col sole in fronte, e felice e felice tanto, veramente. Voglio vivere così, voglio vivere così, la fiorita delle piante che infesta questo cuore, sai perché? E allora la salutiamo subito, Daniela Ducato, coordinatrice della Casa Verde CO 2.0. Buongiorno Daniela. Buongiorno a tutti voi. L'abbiamo avuta anche come azienda, diciamo, e network di aziende, oltre 70 in Italia, con oltre 500 dipendenti, premiata nel concorso delle più belle storie che si può fare del primo anno di programma. È piaciuta tanto la sua storia agli ascoltatori che l'avevano votata. Adesso la ritroviamo perché c'è un progetto, la Banca del Sole. Innanzitutto ricordiamo di che si tratta. È un network di aziende nate in Sardegna, ma sono presenti in tutta Italia. Partono dal concetto di eccedenze, per esempio della produzione agricola, della lana di pecora, ma anche del latte e di tante altre cose, e producono intonaci, pitture, per esempio per la bioedilizia, ma tante, tante, tante altre cose di successo. E quindi voi il settore giusto l'avete trovato. Adesso non siete paghi, non siete contenti, Daniela, e lanciate un'altra linea, quella della, per esempio, la cottura, mi dicevi, a base di energia solare. Sì, la nostra linea, appunto, come dice la parola Casa Verde CO2.0, è quella di creare prodotti e soluzioni e innovazioni chiaramente che vadano a tagliare sempre la CO2. E ci siamo aperti anche perché all'interno di Casa Verde c'è anche la comunità del cibo Slow Food, e ci siamo aperti quindi a tutto ciò che vuol dire cucinare senza inquinare. Abbiamo questo bellissimo e grandissimo pozzo di petrolio sopra la nostra testa che è il sole, e quindi perché non usare l'energia solare diretta? Quindi non stiamo parlando di una energia in qualche modo che arriva per esempio dal fotovoltaico, ma proprio dalla captazione diretta dei raggi del sole. Dentro la nostra filiera c'erano già dei cuochi solari, quindi già abituati a cucinare con... È bello il nome, cuochi solari, eh? Cuochi solari abituati quindi a cucinare, ad autocostruire i loro forni, però per, diciamo, diffondere ancora di più la cottura solare era necessario anche apportare delle innovazioni ai forni, e quindi fare dei forni professionali, ad esempio per la ristorazione, o dei forni speciali per i panifici, per fare il pane solare, o per i caseifici per fare ad esempio le ricottine solari. Vorrei ricordare così un dato, che anche il formaggio più buono del mondo dal punto di vista ambientale, cioè anche quello più eco, compatibile, sostenibile, biologico, comunque per essere prodotto un chilo di formaggio chiaramente produce 12 chili di CO2. Perché comunque tutto ciò che c'è diventa un consumo energetico è inevitabile, trasformazione, esatto, e consumo di energia. Si può fare cronache da un paese migliore. Di nuovo insieme stiamo risentendo le puntate di Si può fare, le storie migliori che abbiamo mandato in onda durante l'anno. In questa programmazione estiva ve le riproponiamo così. E tra poco andremo dentro l'IKEA, dove i dipendenti dell'IKEA, alcune centinaia di persone, una piccola cittadina se vogliamo, stanno sperimentando, forse per primi, ma non per primi sicuramente in Italia, un progetto di pari opportunità per gli omosessuali, alle persone dello stesso sesso. Insomma, se c'è una coppia di fatto tra persone anche dello stesso sesso, ebbene, congedi parentali, rimborsi, ferie, congedi matrimoniali, si può fare tutto, perché lì le pari opportunità le stanno sperimentando per davvero, e questa è una bella storia. E poi andremo sul Lago Maggiore, dove una montagna di bottiglie di plastica stanno per prendere una forma particolare. Sentiremo di che cosa si tratta. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi, noi normali. Sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani, proprio come noi, persone sani. Gli uomini sessuali non ci avranno gli assorbenti, ma però... Io non so se questa canzone urta la sensibilità di qualche gay, spero di no, perché insomma che Cosalone ci strappa tutti un sorriso, però insomma abbiamo voluto introdurla così. Salutiamo Valerio Di Bussolo, responsabile delle relazioni esterne, niente po' di meno che di IKEA Italia, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, voi avete appena vinto qualche giorno fa il premio Sodalitas per le imprese eticamente responsabili, per una buona pratica che voi applicate proprio nei confronti dei lavoratori presso di voi, che ormai sono tantissimi. Quanti sono i vostri dipendenti? Superiamo i 7.000. Beh, pensate, sono una piccola cittadina, omosessuali, cioè quelli che insomma sono dichiaratamente omosessuali e coppie di fatto. Esatto. Che cosa avete messo in pratica? Ma innanzitutto una cosa che riguarda tutte le coppie di fatto, nel senso che noi estendiamo a tutte le coppie, che siano eterosessuali o omosessuali di fatto, di cui uno dei componenti per l'appunto è un dipendente di IKEA, sì, tutti i diritti che noi prevediamo per le coppie regolarmente sposate in comune. Quindi, facciamo qualche esempio subito? Ma il primo, forse più evidente, è il congedo matrimoniale. Quindi per noi il dipendente gay che comunque non si può sposare regolarmente ma che ci porta un documento, un certificato di matrimonio per esempio fatto all'estero, no, basta no. Un certificato di residenza anagrafica italiano, ecco, anche meno, cioè se arriva col certificato di matrimonio fatto all'estero tanto più, se no basta anche dimostrare che si risiede sotto lo stesso tetto, un certificato di residenza anagrafica italiano almeno di 6 mesi, ecco, e quindi voi lo equiparate a una coppia sposata, esatto, e quindi diciamo lei mi chiedeva un caso, è quello del congedo matrimoniale, ma per esempio una cosa molto importante, perché parliamo di coppie con persone dello stesso sesso con figli, e quindi c'è l'equiparazione anche per quanto riguarda i permessi relativi ai figli del padre. Cioè uno deve andare a portare il figlio oppure c'è il figlio malato, sì, esatto, eccetera, quindi... eccetera. Anche in questo caso voi riconoscete, proprio come se fosse una coppia sposata, esatto, qualunque eterosessuale, la possibilità di avere questi permessi, questi orari, questi, esatto, diritti. Oppure le necessità di assistenza al partner, cioè ma anche cose più piccole come lo sconto per i dipendenti, che è esteso anche al partner, lo estendiamo anche al convivente. Ora, delle coppie di fatto. Le faccio una domanda difficile, avete fatto una stima, perché voi siete partiti anche da un questionario interno per migliorare insomma la vivibilità nell'azienda, avete fatto una stima di quanti potrebbero essere le persone diciamo interessate, una quota, una percentuale di questi 7.000 dipendenti? Ma diciamo che noi abbiamo fatto un'indagine, giusto, sì, per capire se c'erano dei problemi anche di casi di omofobia, per esempio all'interno dell'azienda, che grazie a Dio non ne sono usciti in maniera molto forte. Diciamo che si sono dichiarati attorno a un 10-15%. Beh, insomma, non è poco, poi che sia rappresentativo o meno del paese non importa, si tratta comunque di alcune centinaia di dipendenti dell'IKEA. Una strategia di marketing anche questa, in 30 secondi per chiudere, è un modo anche per crearsi un'immagine positiva, perché no, dell'IKEA? Ma immagino poi, no, positiva per chi ci crede, perché naturalmente... farlo, ecco, cioè nel senso, noi siamo lo specchio della società che intercettiamo nei nostri negozi, perché vediamo le famiglie e tutte le tipologie di famiglie, e quindi non esiste che noi vediamo un'Italia con una tipologie di famiglie totalmente aperte e in continua evoluzione, e non riflettiamo tutto questo prima di tutto per i nostri dipendenti, ecco. Because 2 times 3 is 6 yes. And 3 times 6 is 18. And the 18th letter in the alphabet is We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Where's it? Riduci, riusa, ricicla è quello che hanno fisso in mente a Baveno sul Lago Maggiore, dove con una delle materie di scarto maggiore della nostra vita quotidiana, le bottiglie di plastica, hanno in mente di fare un tourbillon di iniziative, tutte all'insegna del riciclo. Zattere, ponti, non lo so. Ci colleghiamo con il coordinatore del progetto Baveno Eco Challenge, Luca Gelati, buongiorno. Buongiorno Alessio e buongiorno a tutti gli ascoltatori. No, intanto diciamo subito che non è che stiamo parlando così di uno scherzo. Luca è un ingegnere. Sì, è una serie. Faccio anche l'ingegnere. Fa anche l'ingegnere. Appassionato evidentemente anche di iniziative di questo tipo, no? E di ambiente e di riciclo degli oggetti. L'idea è quella di riciclare più bottiglie di plastica possibili dalle vostre parti per farci che cosa, Luca? Allora, racconterò brevemente da dove nasce il progetto e che cosa si pone Baveno come obiettivo finale. Intanto Baveno Eco Challenge è un'avventura ecocompatibile che mira a sensibilizzare il tema della raccolta differenziata in un contesto in cui il rifiuto diventa risorsa. Questo qua è proprio il messaggio. Qui sta leggendo il volantino, Luca. Come? Sta leggendo il volantino, Luca, mi fa la spiegazione tutta teorica, no, sto scherzando. No, sono abbastanza preparato. Sta andando a braccio, ecco. Ma ecco, giustamente il coordinatore dell'iniziativa, se non è preparato lui, prego. Niente, volevo appunto dire che con questa iniziativa, con questa sfida, comunque l'obiettivo è quello di attivare una prospettiva di gruppo, di sinergia locale, per poter mostrare anche a tutti i turisti, che sono circa 500.000 presenze nella stagione 2012, come sia possibile promuovere la riduzione dell'inquinamento e degli sprechi delle risorse. Questo qua è un po' il concetto che ha appunto sposato il comune in collaborazione con la Federazione però Italiana. Questa era la premessa, Survivor. Luca, però poi la cosa bella è che quando, ora poi ce lo dirai, sì, sarà possibile assistere alla gara delle zattere fatte con bottiglie di plastica. Allora, arrivo subito al dunque, quindi mi sembra di aver capito che l'interesse sia il nocciolo dell'evento. Beh, sicuramente. Si parte dalla bottiglia, dalla semplice, sì, bottiglia di plastica che è il rifiuto. E poi che cosa si fa? Si devono compattare in sottomoduli da 8 bottiglie e poi in moduli base da 32 bottiglie. Questi sono i mattoncini di riferimento, i moduli galleggianti che andranno a costituire le zattere. Le zattere che si daranno battaglia domenica 1 settembre nel contest Baveno Eco Race, un evento della Proloco che ha come obiettivo quello appunto di mettere in competizione tutti gli iscritti alla gara, potranno essere equipaggi da 4 a 8 persone. Non provateci da casa però, con questi... Luca, un attimo, non provateci da casa a mettere insieme i moduli di 8 bottiglie 32, perché andate a fondo, andate semmai ad assistere alla sfida appunto a Baveno. Tutto questo poi verrà recuperato, sì, nuovamente dopo la gara, per fare un ponte che mira a vincere il Guinness dei primati del ponte più lungo, ponte fatto con bottiglie di plastica, penso. Sì, corretto. Al termine della gara queste zattere galleggianti verranno compattate, sì, l'une alle altre, e l'8 di settembre come sfida finale Baveno si pone di vincere il Guinness World Record. Perché l'8 settembre ha a che fare qualcosa con l'armistizio, no? No. Insomma, non vediamo l'ora di arrivare a settembre e di vedere come sarà questa sfida tra zattere costruite con questi moduli fatti con bottiglie di plastica riciclata recuperate a Baveno. Baveno Eco Challenge, una sfida davvero interessante e originale. Era questa l'ultima storia che siamo andati a risentire per quanto riguarda il meglio di Si Può Fare, che vi riproponiamo in questa programmazione estiva. Continuate a seguirci, continuate a mandarci le vostre storie. Vi ricordo i nostri contatti: Si Può Fare Radio 24, sì certo, su Facebook, Si Può Fare 24 su Twitter, e poi la nostra mail Si Può Fare @radio24.it. aspettiamo i vostri suggerimenti, le vostre segnalazioni e i vostri commenti, anche e soprattutto delle storie che sono andate in onda. Io ringrazio per questa puntata Franco Piantanida in redazione, Andrea Piana che ha collaborato alla scrittura di tutte le puntate, Valeria Bernardi in regia. Ci sentiamo sabato prossimo a mezzogiorno. Buona giornata da Alessio Maurizio.